Benvenuti a tutti, puntata numero 16 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Iniziamo trattando un argomento che la scorsa settimana avevamo saltato. Parliamo di karma e quindi parliamo di Kevin Durant. Per farlo dobbiamo andare indietro di qualche mese. È il 20 giugno 2016, Oracle Arena, Oakland. I Cleveland Cavaliers si sono appena laureati campioni del mondo per la prima volta nella loro storia. LeBron James, con le lacrime agli occhi, grida "Cleveland, this is for you" nell'immediata intervista del dopo sirena. Di quella partita ricordiamo tutti il cuore di Draymond Green, la chase down di LeBron su Iguodala, la tripla di Kyrie Irving che decide la serie, uno Steph Curry non troppo all'altezza, non troppo in forma come spesso gli è capitato in una tornata di playoff apertasi con un infortunio piuttosto grave contro Houston. Ecco, proprio lo stato di forma evidentemente neanche vicino al 60% di uno Steph Curry dolorante, stanco dopo una stagione da record, probabilmente hanno acceso più di una lampadina nella testa di tutto l'establishment dei Golden State Warriors. C'era infatti un free agent ambitissimo quell'estate sul mercato, un giocatore che poteva cambiare equilibri alla Lega, essendo uno dei più forti in circolazione, e alla squadra, rendendola potenzialmente una delle più letali di sempre, e già potenzialmente lo era. Quell'uomo si chiama Kevin Durant. Qualche settimana prima aveva lottato eroicamente con la spada di sempre, Russell Westbrook, proprio per tornare in finale NBA. Dopo l'upset dell'eliminazione degli Spurs per mano dei suoi Thunders, la supercoppia si era addirittura portata in vantaggio nettamente nella finale di conference a scapito dei favoritissimi Warriors, per poi farsi raggiungere e perdere in una tesissima gara 7. Una serie bellissima con OKC veramente a un passo dal traguardo. Perché quindi non riprovarci l'anno seguente? Questa era la domanda che tutti i tifosi NBA si facevano, probabilmente se la facevano anche Westbrook e Durant. La carriera di KD quindi si trova a questo punto di fronte ad un bivio: riprovarci di nuovo con OKC, con Westbrook per completare quell'eroico upset fallito di un soffio e raggiungere così la finale NBA, oppure discutere potenzialmente direttamente di titolo assoluto, mollando la sua squadra di sempre per andarsene in quella che sulla carta era già potenzialmente la più forte, quei Golden State Warriors che li avevano appena eliminati. LeBron James ne sa qualcosa rispetto a decisioni simili. Criticato ed odiato per aver mollato Cleveland per vincere a Miami, è riuscito a scrollarsi di dosso proprio quel 20 giugno 2016 l'appellativo di Volta Gabbana, zittendo tutti quei detrattori che per anni hanno affermato quanto fosse facile vincere andando a giocare a fianco di Wade e Bosch, piuttosto che trascinare con il proprio genio la squadra di quella città nota in America per essere The Mistake on the Lake. Un'estate di dubbi e domande quindi per Kevin Durant, il quale, dividendo proprio come James al tempo l'opinione pubblica americana e creandosi un numero di detrattori che fino ad allora probabilmente non avrebbe mai pensato di avere, decide per la strada più semplice: cambiare maglia, andare a Golden State, a fianco di due micidiali tiratori come Steph Curry e Klay Thompson, a dar vita ad una squadra a dir poco devastante. In questa stagione Steve Kerr gestisce i tre in modo oculato a livello di tempo in campo e di sforzi. Il fantasma di arrivare stanchi, spompati, bolliti ai playoff come accaduto l'anno precedente doveva assolutamente essere scacciato. Durant è arrivato per questo, per riportare il titolo nella baia, per aiutare la squadra a gestire una regular season vincente senza però premere troppo sull'acceleratore, senza distruggersi in nome di un record di vittorie. E infatti, Golden State mantiene il miglior record della Lega, tende a vincere le partite spesso dopo due quarti, evitando di giocarsele tutte alla morte come l'anno passato. Se quei tre sono in serata di tiro, e capita spesso, la partita è finita già dopo la palla a due. Se invece per qualche motivo la giornata è di quelle pessime, nessun problema, non gliel'ordina di certo il dottore di vincere tutte le partite, del resto il record di vittorie alla stagione regolare di sempre è il loro ed è stato fatto lo scorso anno. Durant vive una prima metà di stagione da protagonista, con statistiche che si attestano intorno ai 25 punti e gli 8 rimbalzi di media con quasi 5 assist. Dividendosi tra estimatori suoi e del nuovo sistema degli Warriors che inevitabilmente cambia a livello di gioco con il suo innesto, e haters che lo definiscono un traditore, tra i quali c'è anche l'ex compagno Russell Westbrook che, avendo ricevuto le chiavi di squadra a Oklahoma City, prosegue in una stagione da record con una tripla doppia di media partita, almeno al momento. Nell'ultimo giorno del mese però, nella notte del 28 febbraio, con Golden State impegnata a Washington all'interno di un tour ad est previsti durante la stagione di Kevin Durant è destinata a complicarsi. Pochi minuti di partita, al rimbalzo Marcin Gortat dei Wizards sbraccia spingendo via Zaza Pachulia degli Warriors. Pachulia non è un coordinatissimo giocatore di suo e in questo caso sembra non aspettarsi proprio la spinta. Cade rovinosamente a terra, la sua spalla impatta violentemente con il ginocchio proprio di Durant, che a sua volta sembra non aver previsto quell'epilogo. Che Durant si sia fatto male lo si capisce subito dalla sua reazione. Gli esami sono immediati, il clima in casa Warriors è quello di un funerale nel post partita, che tra l'altro perdono in volata anche grazie all'apporto di uno dei nuovi arrivi degli Wizards, Bojan Bogdanovic, che chiude con 16 punti, con un Bradley Beal da 25 punti e grazie anche al cuore dei soliti Otto Porter e John Wall. Steph Curry, apparentemente non in momento di forma particolarmente tremendo, a pochi secondi dalla fine sotto di due prova a chiuderla con un'improbabile tripla da circa 9 metri, gli va lunga e chiuderà con solo 2 su 9 da dietro l'arco. Per Durant si parla di stagione finita, o comunque di playoff a rischio, una tegola per gli Warriors. Golden State, che sembrava aver appena firmato Calderon, lo taglia e corre ai ripari ingaggiando Matt Barnes. Tutto il mondo del basket, diviso rispetto alla decisione presa da Durant e di conseguenza sull'apprezzamento verso il giocatore stesso, per una ragione o per un'altra resta con il fiato sospeso, qualcuno probabilmente gongola. Il responso arriva qualche giorno dopo ed è per la verità piuttosto enigmatico a mio avviso. La prima reazione è un sospiro di sollievo, contusione alla tibia e distruzione del collaterale, potenzialmente stagione e soprattutto playoff salvi. In realtà però i tempi di recupero sono ovviamente molto incerti, fortunatamente non ci sono lesioni, ma contemporaneamente uno stato simile prevede tempi di recupero soggettivi e potenzialmente aumenta la paura di peggiorare le cose in vista di un eventuale recupero della forma. Per adesso un mese sicuro di stop e nuovi esami per valutare i tempi di recupero. L'idea è quella di un rientro con il contagocce prima della fine della regular season per riprendere confidenza con il campo, con l'augurio di avviare la post season, per la quale i Warriors sono già qualificati tra l'altro, in uno stato di forma dignitoso. Situazione ben complessa per gli Warriors, che riporta alla mente proprio quello avvenuto nei playoff dell'anno scorso con l'infortunio di Steph Curry, che l'ha costretto sofferente a volte a mezzo servizio fino all'ultima gara di finale, a gara 7, persa in casa. Intanto, come raramente è capitato negli ultimi anni, la squadra di Steve Kerr ha perso due partite consecutive senza KD. Dopo la caduta a Washington cadono anche a Chicago nella notte del 2 marzo. Gli Splash Brothers combinano con un 2 su 22 da 3 punti. Certo, ci fosse stato KD, avrebbe potuto metterne dentro qualcuno lui, evidentemente, di tiri da dietro l'arco, visto che i due non erano particolarmente ispirati. Si riprendono invece poi al Madison Square Garden contro i New York Knicks nella partita della domenica sera. Steph non è in un gran momento a livello di percentuali, ma comunque nell'arena più famosa del mondo ne mette 31, anche con 8 rimbalzi e 6 assist, e alla fine chiude con 5 su 13 da dietro l'arco. La prodezza della settimana invece la fanno i Cleveland Cavaliers, ed è una prodezza di squadra nella notte del 3 marzo, nella sfida d'Atlanta contro gli Hawks. I campioni in carica chiudono con 25 su 46 da 3 punti, che è un record NBA. LeBron partecipa con 6 su 10 da dietro l'arco per chiudere con 38 punti. Un clamoroso Kyrie Irving con 5 su 8 da 3 chiude con 43 punti. La partita finisce 135-130, con Atlanta che comunque riesce a rientrare nel finale, portandosi a meno 1 con poco più di un minuto da giocare, trascinati da Paul Millsap e soprattutto da un Tim Hardaway Jr. da 36 punti partendo dalla panchina. Vittoria convincente per i Cavs, quindi, che 24 ore dopo decidono così di far riposare proprio le loro due superstar, reduci appunto da 81 punti messi a segno in coppia contro Atlanta. Perdono però dai Miami Heat. Tegola poi su un nuovo arrivo, nella notte del 6 febbraio, nel rematch proprio contro gli Heat. Ancora ritorna alla questione del karma, evidentemente. Intanto il risultato è che Cleveland perde ancora, grazie a un Dion Waiters da 29 punti, malgrado anche il solito LeBron James da 30 punti e 17 rimbalzi e un Kyrie Irving da 32. La notizia clamorosa è però l'infortunio al debutto e dopo appena un minuto di partita o poco meno per Andrew Bogut. Ginocchio rotto per l'australiano, ovviamente stagione finita e veramente tanta sfortuna. Tra l'altro Bogut, che lo scorso anno era nei Golden State Warriors, non giocò tutta la serie finale per un infortunio in una delle prime partite. Quest'anno, dopo una prima parte di stagione a Dallas, era stato ceduto a Philadelphia, si era fatto tagliare per poter andare in una contender, in questo caso contro gli avversari dello scorso anno, il Cleveland Cavaliers, appunto per poter giocarsi una finale NBA possibile, quindi per potersi giocare il titolo quantomeno da semi-protagonista. Karma nero anche per lui, stagione finita, ginocchio rotto, Cleveland perde comunque anche quella partita per 106-98. Settimana caratterizzata da molte partite che si concludono con il canestro dell'ultimo secondo o quantomeno con un ultimo tiro nello specchio degli ultimi secondi di partita. Nella notte del 6 marzo, ad esempio, un Kawhi Leonard in versione MVP da 39 punti piega con una tripla a pochi secondi dalla fine i Rockets di un James Harden, anche lui da 39 punti, tra l'altro stoppato dallo stesso Kawhi Leonard nel capovolgimento di fronte. Clay Robinson III, invece, il vincitore della gara delle schiacciate, vince con una tripla una gara dal finale incredibile come quella tra i Pacers e gli Hawks del 5 marzo. Pacers vincono 97-96 grazie al re delle schiacciate, ma anche grazie al match giocato da un Paul George a 34 punti. Stessa notte, e i Wizards di misura vincono sui Magic con un Bogdanovic che si sta rivelando veramente un super acquisto. Chiude con 8 triple e tra l'altro è lui a segnare la tripla del sorpasso con un po' più di 20 secondi dalla fine sul cronometro. Stesso copione più o meno tra Jazz e Sacramento Kings. Utah alla meglio 110 a 109. Si va da prima all'overtime grazie ad un layup di Gobert in corsa, probabile a mio avviso infrazione di passi a 3 secondi dalla fine. Nel supplementare poi sempre Rudy Gobert con le sue braccia lunghissime traduce in canestro un tiraccio della disperazione di George Hill. Di fatto è un tap-in regolare, anche se dalla parte dei Kings si protesta per interferenza irregolare. 16 punti e 24 rimbalzi per il gigante dei Jazz. Clamoroso poi il finale a Phoenix nella stessa notte, nella sfida tra Celtics e Phoenix Suns. Isaiah Thomas che chiude con 35 punti, segna due liberi a 11 secondi dalla fine, fissando il punteggio sul 106 a 104 per Boston. Eric Bledsoe percorre tutto il campo e impatta la partita con un layup acrobatico a 4 secondi dalla fine. Rimessa in mano a Boston, rimessa fatta malissimo da Joe Crowder nelle mani di Isaiah Thomas. Thomas non la prende bene, pasticcia, favorendo così il recupero da parte di Marquese Chris. La palla raggiunge a Tyler Ulis che spara la tripla della disperazione senza nel ritmo, senza equilibrio, solo rete. I Suns segnano 5 punti in meno di 10 secondi e ribaltano un risultato incredibile, vincendo 109 a 106. Per quanto riguarda invece la prestazione della settimana, dovremmo provare ad escludere dai giochi Russell Westbrook, ma è cosa piuttosto complessa da fare. Oltretutto, se ancora si parla di lui, come neanche messo in lista per il titolo di MVP della stagione. Lo ha detto in questa settimana Mark Cuban, che vede una corsa a due per questo titolo tra Leonard e Harden. Tanto per fare un piccolo riassuntino, il 26 di febbraio contro i Pelicans Westbrook chiude con 41, 11 rimbalzi e 11 assist. Due notti dopo contro i Jets con 43, 11 rimbalzi e 10 assist. Entrambe queste due partite sono vinte da OKC. Seguono poi tre sconfitte consecutive, ma noi dobbiamo valutare le statistiche personali in questo caso, per cui il 2 marzo segna 45 punti senza tripla doppia contro i Blazers. La sera dopo, il 3 marzo, in back-to-back si ripete con 48 punti nella sconfitta contro i Phoenix Suns, prendendo anche 17 rimbalzi e smazzando 9 assist. Una pazzesca prestazione in 38 minuti. 4 gare consecutive del genere non sono male, malgrado il Cuban pensiero, io valuterei alla corsa per l'MVP almeno una cosa a 3. Pur raccontandovi onestamente, con queste statistiche il numero 0 è il mio favorito assoluto. La prestazione della settimana definitiva è comunque la sua e la raggiunge il 7 di marzo, seppur anche in questo caso con una sconfitta contro Portland. Westbrook tira la bellezza di 39 volte dal campo, segnando 21 volte, 21 tiri su 39, attestandosi anche su un 13 su 16 della lunetta. Cicca la tripla doppia per molto, perché comunque smazza 9 assist ma prende solo 3 rimbalzi. Segna però il suo record in carriera di 58 punti. Non servono assolutamente a nulla perché, come già detto, Casey perde, ma non si può non considerare questa come la performance più importante da un punto di vista realizzativo della settimana e tra l'altro della carriera di Westbrook stesso. Al momento in cui vi parliamo, gli assist di media sono precisi dentro la tripla doppia. Si tratta di 10.0. Se Westbrook vuole sperare di impattare il record di Oscar Robertson e quindi una media stagionale in tripla doppia, in punti, assist e rimbalzi, i suoi compagni devono decisamente aiutarlo a mantenere le incredibili statistiche portate avanti fino ad adesso. Sempre nella notte del 7 marzo, Dirk Nowitzki diventa il sesto giocatore nella storia dell'NBA a segnare 30.000 punti in carriera. Si iscrive a quel club privato composto da Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Will Chamberlain. È l'unico non americano ad aver raggiunto questa cifra statistica. Giocatore unico nella sua storia, che viene scelto nel draft del 1988 con il numero 9 dai Milwaukee Bucks e clamorosamente scambiato a Dallas per Robert Traylor, detto Tractor, non certo un giocatore di prima fascia nella sua carriera NBA e purtroppo defunto a Puerto Rico per un infarto nel 2011. Dopo una prima stagione di assestamento con 8 punti di media, Nowitzki esplode già nella sua seconda in carriera, raggiungendo apici da uomo franchigia e portando i Mavs per 2 volte in finale NBA, vincendo il loro primo storico titolo nel 2011 contro i Miami Heat di Dwayne Wade e LeBron James. Primo europeo nella storia NBA quindi a vincere il titolo di MVP stagionale nel 2007, tra l'altro forse neanche disputando la sua miglior stagione in carriera di sempre. Nella sfida in questione, contro i Lakers, chiude alla fine tra l'altro con 25 punti e 11 rimbalzi. Andiamo rapidamente a dare un'occhiata alle classifiche di conference. Cleveland ad est salda al primo posto, inseguita dai Celtics reduci da un paio di notti di flessione in trasferta ad ovest in questa settimana. Terzo posto per gli Washington Wizards, partiti malissimo ad inizio stagione, in grande rincorsa di poco gioco sopra i Toronto Raptors. La lotta per l'ottavo posto, cioè l'ultimo posto utile per i playoff, ci stanno dentro con un record molto vicino l'una dall'altra i Pacers, i Pistons e i Chicago Bulls. Al nono ci sono dei rincorsi Miami Heat. Io credo al momento improbabile prevedere un cambiamento tra le prime otto, almeno di clamorosi crolli nelle ultime tre squadre, appunto, dell'otto in classifica. Ad ovest invece Warriors e Spurs sono già qualificate ai playoff con i primi due record della Lega. Terzo posto per gli Houston Rockets, che hanno più o meno lo stesso record dei Cleveland Cavaliers. Quarto posto per gli Utah Jazz. Ovest l'ottavo posto è al momento occupato dai Denver Nuggets, ma dietro vedono la possibilità di aggancio in cinque squadre differenti: Portland, Dallas, Minnesota, Sacramento e New Orleans. Staremo a vedere. Arriviamo adesso alla nostra rimembranza della settimana. Andiamo indietro nel tempo sfruttando gli spunti dati da due degli argomenti caldi del momento, e cioè gli infortuni e le Twin Towers. Parliamo infatti di Ralph Sampson, giocatore che avrebbe potuto essere molto di più di quello che è stato proprio a causa degli infortuni e che al tempo era parte della prima coppia di Twin Towers nella storia della Lega. Sampson è un giocatore di 2 metri e 24 cm, capace di saltare ed anche di correre come raramente si vedevano per quella stazza. È un assoluto dominatore a livello di college con Virginia e approda agli Houston Rockets come prima scelta assoluta nel draft del 1983. Vince il premio di rookie dell'anno attestandosi come media intorno a 21 punti e 11 rimbalzi per alzata di scarpe, e l'anno seguente viene affiancato dall'altra torre gemella Hakeem Olajuwon, anche lui scelto con la numero 1 del draft. Nella prima stagione di Sampson, Houston chiude con un record di 29 vinte e 53 perse. Il primo anno delle Twin Towers, invece, dove Sampson viene impiegato da ala grande, vista la sua agilità, tra l'altro immaginatevi un'ala grande di 2 metri e 25, quell'anno Houston raggiunge i playoff. Il terzo anno, il secondo delle Twin Towers, Houston raggiunge la finale NBA. Nel 1985 Sampson vince il premio di MVP all'All-Star Game e mantiene medie stagionali sopra i 20 punti e 10 rimbalzi per partita. Sarà un suo incredibile canestro sulla sirena l'anno seguente a consegnare a Houston la finale NBA, sconfiggendo in finale di conference niente di meno che i Lakers dello Showtime, quelli di Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. In finale NBA Houston incontrerà i Celtics di Larry Bird. Dopo le prime due sonore sconfitte al Boston Garden, i Rockets rientrano nella serie in gara 3 vincendo 106-104. Perdono però gara 5 per poi provare a rientrare di nuovo vincendo l'ultima partita delle tre casalinghe a disposizione e ritornando così al Boston Garden. Lì niente da fare, i Celtics si laureano campioni e Larry Bird è l'MVP della finale, ma sembra solo una questione di tempo per le Twin Towers. Il dominio futuro della Lega sembra circoscritto intorno a loro. E invece il destino ci mette un discreto zampino, soprattutto nella carriera del promettentissimo Sampson. Una serie di infortuni alle ginocchia danno il via ad un calvario che non gli permetterà più di disputare una stagione intera all'interno della Lega. Nella stagione 87-88 viene poi ceduto ai Golden State Warriors, riuscendo comunque a chiudere quell'anno con medie pari a 15 punti e 10 rimbalzi a partita. È la fine del sogno Twin Towers a Houston e di fatto anche la chiusura della carriera di Sampson. Le continue ricadute gli permetteranno di restare in attività solo per altre 4 stagioni in teoria. In realtà nelle ultime 3 giocherà sempre meno di 10 partite a stagione, passando nel frattempo da Golden State a Sacramento e infine a Washington, facendo registrare medie pari a 5 punti a partita più o meno. Così, dopo 9 stagioni NBA a solo 31 anni, Sampson decide di gettare la spugna e ritirarsi, avendo offerto alla Lega solo un piccolissimo antipasto del giocatore che era, e malgrado questo riuscendo in appena 3 anni a portare una franchigia perdente come Houston alla finale contro i Celtics. Per la verità, in seguito al ritiro dalla NBA, Sampson proverà più volte a tornare, provando a giocare 8 partite nella Liga Spagnola a Malaga, prima di ritirarsi di nuovo e riprovare sporadicamente a calcare i campi della CBA nella stagione 94-95. Per tornare a sentir parlare dei Twin Towers, dovremo aspettare qualche anno. È il 1997, infatti, il signor Tim Duncan viene scelto come prima scelta assoluta dai San Antonio Spurs, con il progetto di affiancarlo ad uno dei migliori centri di sempre, David Robinson. Quindi, il 2 metri e 11 da Wake Forest University ricoprì da subito il ruolo di ala grande, proprio come fece Sampson, e a fianco dell'ammiraglio raggiunse il titolo NBA in pochissimo tempo, esattamente nella stagione 1998-99, con vittoria in finale degli Spurs sui New York Knicks. Era la stagione dimezzata a causa del lockout, è vero, ma si tratta comunque del primo titolo di una discreta carriera di successi per quel Duncan, che proseguirà a dominare la Lega anche dopo il ritiro dell'altra torre gemella Robinson. Però questa è comunque un'altra storia. Benissimo, noi chiudiamo qui, abbiamo parlato abbastanza, grazie ancora per l'ascolto, ci sentiamo la settimana prossima on NBA Week.